Non si è evacuare le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura. Sempre spiato. Non si è evacuare le persone. Ho paura. Ieri è venuta a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trovo di essere sempre spiato. Non si evacuare le persone. Ma che fate? Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo. C'ha paura. Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, spiato. Ma a me non mi sta migliorando. Cara mia, por lo menos date cuenta. Cara mia, por favor, me deja mi respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la da mi corazón. ¿Y tú por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. E allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere e contro ogni altra struttura che è priva della propria libertà, quindi il carcere minorile, i CIE, ma anche gli arresti domiciliari, ma anche ovviamente gli OPG e i manicomi criminali, quella tremenda situazione, la più peggiore tra i lager che esistono in questo paese, in questo mondo. L'OPG è veramente il peggiore dei lager, ormai credo lo sappiamo tutti e tutte perché si sono viste le prove documentate, e quindi contro tutte queste cose. Oggi ovviamente è mercoledì, quindi siamo ancora lì alla testata della trasmissione, è mercoledì ed è l'8 di giugno. L'augurio principale, oltre che a tutti e tutte che ci ascoltano, va a coloro che sono privati e private della propria libertà. E allora, purtroppo iniziamo anche quest'oggi con una lunga serie di, questa è quella settimanale, la serie, perché di morti che hanno caratterizzato la permanenza delle carceri italiane. E dunque, è un po' di tempo che al carcere di Padova, in questa situazione strana dove nella stessa cella c'erano, nella stessa piccola cella c'erano tre detenuti, due di questi tre si sono suicidati o perlomeno sono morti a distanza abbastanza ravvicinata l'uno dall'altro, diciamo, più o meno una settimana. E dunque Alessandro, 38 anni, è morto ieri pomeriggio, di qualche giorno fa, nel carcere Due Palazzi di Padova, originario di Salerno, eccetera, eccetera. Tra l'altro anche lui, come questa era una cella dove erano tre persone che stavano in carcere per piccoli reati, non perché la cosa, quando si sta dentro, interessi il reato, ma per capire che loro erano stati messi insieme perché hanno tutti e tre tossicodipendenti. E, tra l'altro, situazione che, come sappiamo, è l'ultimo posto dove il tossicodipendente dovrebbe andare in carcere, ma per le leggi italiane il consumatore è altrettanto punibile che il lo spacciatore, questo, soprattutto che molto meno dei grandi trafficanti che fanno i profitti stellari sulla vita delle persone. Comunque, c'erano le tre tossicodipendenti, anche questo aveva un passato di tossicodipendenza, quindi stava dentro per un tentato furto, quindi praticamente niente. E qui la nota ricorda che sono 20.000 i tossicodipendenti nelle carceri italiane. Su 70.000, cioè ormai che stiamo arrivando quasi a 80.000, ve ne sono 20.000, quindi più di un quarto tossicodipendenti, che è una cosa tremenda. La nota ci ricorda che al carcere di Padova, che pure fino a qualche mese fa era ritenuto perché un carcere modello, perché è nuovo, di recente costruzione rispetto alla media delle carceri italiane, sono molto vecchie anche come struttura muraria, è nuovo, si diceva, dicevano, perlomeno diceva la direzione, dicevano anche i ministeriali, dal ministero facevano sapere che a Padova si facevano tanti corsi di recupero, attività lavorative, eccetera, quindi è ritenuto perlomeno un carcere pilota. Pilota lo è stato, purtroppo, nella, come dire, nel sottolineare questa tendenza al massacro, un vero e proprio sterminio che sta avvenendo nelle carceri italiane. Quindi è all'avanguardia, ma soltanto perché negli ultimi due mesi, ci ricorda qui la nota del Gazzettino, che ha riportato questi omicidi, ci ha anche fatto delle riflessioni, perché insomma vedere due compagni di cella morire a distanza di una settimana uno dall'altro è ovvio che pone dei problemi seri, sicuramente, perlomeno a chiunque, poi vabbè che i ministeri e altri non se ne occupino, fa parte del loro mestiere. Però insomma, quindi ci ricorda che negli ultimi due mesi sono appunto quattro morti nel carcere di Padova negli ultimi due mesi, quindi una percentuale molto alta, e tutti erano molto giovani, anche questa è un'altra caratteristica, ben al di sotto dei 40 anni. Tre sono morti nello stesso modo, inalando del gas dalla bomboletta, il butano che è nelle bombolette dei fornelletti da campeggio, e appunto quindi tre hanno fatto lo stesso tipo di percorso, purtroppo suicidiario. Sono 1000 le persone decedute nei penitenziari italiani in 10 anni, sono 1821, ricorda questo dato. Di questi 651 è stato riscontrato il suicidio, e poi vi sono invece altre 100 di cui la morte non è ancora definita, gli altri per morte cosiddetta naturale, ossia per malattia non curata in genere. Non è finita la storia di questa settimana. A Spoleto, altro carcere chiacchierato, un ergastolano di 53 anni si è impiccato. E questo raggiunge quota 26 suicidi nel 2011 in questo paese, nelle carceri di questo paese. Vabbè, inutili soccorsi, la storia è la solita, è stato trovato impiccato, è stato tolto dalla corda, però si è provato a rianimarlo, ma non ci è riuscito. Il terzo morto, e ci riporta in quell'inferno che sono gli OPG, il terzo morto è avvenuto ad Aversa, uno dei più famigerati e pessimi ospedali psichiatrici giudiziari, ossia manicomi criminali. Aveva 39 anni, è morto per una sospetta setticemia non curata. Ora, la setticemia è un'infezione, cioè è qualcosa che si produce dopo un'infezione. Un'infezione non curata può portare. E se, come abbiamo visto anche le immagini dello Stato, oltre che i racconti degli OPG, è chiaro che lì non viene curato nessuna delle ferite, per cui probabilmente è la patologia a più alto rischio, la setticemia. E questo infatti è morto di setticemia, 39 anni, lo rende noto l'Associazione Antigone della Campania, di Napoli, che sta, attraverso Dario Stefano dell'Aquila, stanno osservando attentamente soprattutto l'OPG di Aversa, perché è uno dei più famigerati, dei più infami manicomi criminali, dove il letto di contenzione funziona a pieno ritmo. e ve ne sono stati tanti ad Aversa in questi ultimi mesi. Qui porta tutto l'elenco, triste elenco, quindi questo riporta ancora una volta la vicenda degli OPG in primo piano, la morte ad Aversa che è arrivata a un livello enorme, il numero dei morti in questo OPG. E interviene anche il senatore Marino che si è fatto, come dire, artefice di quella campagna insieme ad altri, Stop OPG, che da qualche mese sta, non onestamente bisogna riconoscere, non con tantissime iniziative. Qui appunto dovrebbero intervenire altri soggetti più attivi del movimento per chiudere questi lager, questi maledetti lager che sono gli OPG, però le strutture che hanno firmato, le organizzazioni che sono appunto Antigone, il Forum Salute, il Forum Carceri e poi la CGL Funzione Pubblica eccetera, l'ARCI eccetera, che hanno firmato questo cartello che chiedono Stop OPG, chiedono ossia la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari perché non accettabile. In subordine chiedono la fuoriuscita nell'immediato, non in subordine. L'obiettivo è di chiudere gli OPG e speriamo che mantengano duro su questo terreno. Soluzione immediata è far uscire i 360 dimissionati, già dimissionati dagli OPG, almeno per far uscire questi 360 e poi passare alla chiusura. Non sappiamo se c'è un quadro politico favorevole e nemmeno un quadro sociale, perché se facciamo per esempio il paragone con un altro periodo, con altri periodi di grossa lotta, per esempio la lotta contro i manicomi, che porta il nome di la lotta di Basaglia, ma tanti altri si interessano. Beh, quella vide il movimento schierato in quella battaglia per la chiusura dei manicomi, molto determinato e anche con molta chiarezza, e anche per diciamo non far fare un passo indietro, quindi incalzando il sistema politico che aveva detto un primo sì, un ni, però avrebbe subito ripiegato una mediazione di brutto tipo stampo. In realtà la chiusura dei manicomi è stata portata avanti, poi è ovvio in fase legislativa, ma su quel terreno il movimento non ci sta, e quindi vabbè, sul terreno legislativo poi la legge intanto diciamo la legge venuta fuori è stata una porcheria rispetto a quella originaria costruita dal movimento per la chiusura dei manicomi e da Basaglia stesso. Quindi la soluzione legislativa è stata penosa, però perlomeno si è impedito che la mediazione fosse condotta a un più basso livello, ossia invece di chiuderli, ad esempio cambiare nome, cosa che potrebbe avvenire in questa fase. Apposta noi da questi microfoni continuiamo a dire sarebbe importante che le strutture di movimento partecipassero, comunque facessero proprio, anche con diversità che ci sono e sono tante, con questo cartello Stop OPG, però facesse proprio questa battaglia, la riempisse di contenuti ancora più antagonisti, per esempio lo diciamo da sempre, oltre alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari vanno chiuse anche tutte le infermerie psichiatriche che sono già in numerosi carceri, quindi un prolungamento degli OPG, e poi andrebbe proprio la battaglia contro il controllo psichiatrico, un controllo che diventa sempre più pervasivo, ormai vi sono tantissimi allarmi un po' in tutto il mondo, in prevalenza nel mondo cosiddetto sviluppato, Nord America, Canada e Europa. Il controllo psichiatrico è una dinamica pervasiva in cui gli stati, con gli stati appunto dediti a un controllo sempre maggiore della popolazione, a fianco della repressione, quella solita col manganello, cercano di usare in maniera preventiva, quindi ancora più come dire, no? Più asfissiante, il controllo sulla mente delle persone, sui comportamenti, quindi il controllo psichiatrico ben si presta a questo perché è stato proprio costruito per un controllo sui comportamenti delle persone. Adding care or even know it's there. But then I'll have my fun. So do it, just press on. Don't lose your grip, man. Don't lose ambition. E allora riprendiamo, sono le 15.20, 24 minuti primi. Dunque, dicevamo, quello che il senatore Marino, che ha guidato quella commissione senatoriale che ha visitato alcuni OPG e hanno realizzato, grazie ad alcuni operatori che si accompagnavano a questa commissione, anche dei video molto interessanti che hanno, diciamo, rotto, perlomeno per chi non lo sapesse, per chi non lo sapeva, hanno rotto quel velo di omertà che no, gravava su, la gente diceva non so, non si, nessuno ne parlava. Quel video ha scioccato, stavo andando in televisione ed è ancora su YouTube, quindi credo l'abbiano visto più o meno tutti quelli che hanno interesse a vederlo. Insomma, quindi Marino ha detto, a proposito di quest'ultimo morto ad Aversa, il diritto alla salute si è smarrito. In strutture come gli OPG, gli internati non sono pazienti, manca loro tutto, la cura e l'assistenza sono state passate via dalla mancanza di risorse. Qui mette una vicenda, diciamo, economica che non ha alcun senso, perché non è che se ci fossero delle risorse gli OPG sarebbero, per ragione di questo diciamo stanziamento di fondi, migliori, sono sempre dei lager. Allora, poi continua, quindi lui porta avanti, appunto ci insospettisce un po' questa campagna contro gli OPG, perché ha dentro di sé un contenuto eccessivamente legalitario. Per esempio, il fatto che mentre tu chiedi, diremmo noi a Marino se ci ascoltasse, mentre tu chiedi una battaglia di alto spessore e morale e contenutistico, cioè quindi è politico la chiusura degli OPG, quindi no, chiudere gli OPG, via, poi dopo discutiamo tutto il resto, e quindi il problema diventa le ASL, il problema diventa di altro ordine, non di privazione di libertà, non di reclusione. Quindi chiedi un obiettivo di questo tipo, poi che senso ha che nello stesso discorso dici, come sta dicendo qui, ho chiesto ai carabinieri del NAS, dice Marino, in servizio presso la commissione d'inchiesta appunto del Senato, di ottenere al più presto la cartella clinica e tutta la documentazione utile a identificare il livello di intensità di cura che sono state offerte al paziente internato sin dall'inizio della malattia. Questo perché la morte è di setticemia, quindi una morte. Però voglio dire, ecco, cioè pretendere che queste strutture, immaginare che queste strutture possano, come il carcere, rispettare il diritto di chi vi è recluso, questa è una follia. Per questo ha fatto dire, non so, noi siamo gli ultimi di una schiera, di una schiatta notevole di persone, studiosi del carcere, che hanno detto sempre, fin da quando il carcere è sorto, il carcere non è riformabile. E lo affermiamo anche noi, ma non l'abbiamo inventato noi purtroppo questa cosa, anche se, perché è una bellissima frase, il carcere non è riformabile, ma non l'ha detto manco Foucault, viene ancora da prima, dall'Ottocento. Perché quelle strutture volte alla devastazione della persona, è chiaro che come fai a... è come se tu dicessi facciamo una tortura dolce, non è possibile, no? È possibile torturare una persona in maniera dolce, sì, ci saranno tanti modi per torturare, ma poiché il fine è in infliggere delle sofferenze perché la persona cada in completo stato di subordinazione, no? Di subalternità a colui che lo interroga, quindi possa estorcere tutte le confessioni che vuole, è chiaro che non ci potrà essere una tortura lieve, morbida, così come non ci può essere un carcere in cui si rispetti il diritto di colui a cui viene tolto tutto il diritto. Il recluso, la reclusa è una persona a cui è stato tolto tutto il diritto, perché è stato tolto il diritto alla libertà, che è il primo, quello intorno a cui ruota tutto, la libertà di movimento, la libertà di espressione. Quindi dire questa cosa come se fosse soltanto la mancanza, è chiaro che c'è anche quello, c'è anche il degrado murario, cadono, l'abbiamo visto nelle foto, no? Come dire, i bagni sono sporchi, manca la doccia, non c'è l'acqua calda, i muri sono scrostati, cadono pezzi di intonaco. tutto questo è il corredo per far diventare quei luoghi delle mostruosità. Ma anche se fossero l'indepinte le pareti e l'acqua, ci fosse la doccia con l'acqua calda eccetera, come c'è in altre parti in Italia, questa cosa ve la potete scordare perché in Italia il riformismo non ha mai avuto nemmeno quello di facciata, appunto, che invece in voga nelle famose socialdemocrazie di altri paesi, ha mai avuto spazio, figuratevi. Però anche laddove c'è, invece, ci sono alcuni paesi dove la struttura segregante ha una, cioè, funziona tutto. E tuttavia quei luoghi non è che addolciscono la sofferenza, difatti si suicida pure lì, si muore anche lì, vengono devastate perché la struttura carceraria e l'OPG in particolare è tesa proprio a togliere la personalità, quindi a incrinare, a rompere, a spezzare l'unità dell'essere umano, no? E quindi come tale. Comunque questo ci però comunque dopo queste, perché lui essendo un uomo di delle istituzioni, appunto un senatore, fa parte di un partito che ambisce a responsabilità di governo, il PD, e quindi come la gran parte dei firmatari di questo cartello, per cui chiedono appunto una abolizione però legalitaria. Ora è difficile veramente trovare la porta stretta dove possa passare. Comunque, visto che l'hanno lanciata, la parola Stop PG è una bella parola, c'è poco da fare, può darsi che l'abbiano fatta a fini strumentali, non ha importanza, l'hanno fatta e sarebbe opportuno cavalcarla appunto. Pure allora, appunto, negli anni 70, ricordate che il sostegno alle lotte in carcere aveva c'era, però aveva un ampio raggio, dall'unità che diceva dentro ci stanno delle brutte, dentro il carcere ci stanno delle persone brutte, c'era un bel titolo, mi ricordo, quando durante le rivolte di San Vittore l'unità uscì dicendo, pur essendoci tra i promotori di queste rivolte dei personaggi che cattivi, cioè brutti, hanno fatto cose brutte e che ovviamente devono stare reclusi, tuttavia gli obiettivi che portano avanti i carcerati sono giusti, perché i carcerati chiedevano appunto una riforma, l'abolizione dei codici fascisti, del regolamento carcerario che risaliva al 30 e delle riforme, e quindi riconosceva questo doppio registro, andava da lì passando per tutti le sfumature fino al movimento che sosteneva a spada tratta e che diceva appunto liberare tutti, fuori tutti, aboliamo le galere, ma soprattutto diceva ciascun reato, e questa è molto bella, e ci sono delle stanche, una volta erano piene le mura della città, delle città, dei paesi dove era vivo il movimento, ogni detenuto è un detenuto politico, ciascun detenuto, ciascun recluso, a qualunque titolo venga messo in carcere, è un detenuto politico. Cioè la frase siamo tutti detenuti politici era una frase bellissima. Che vuol dire? Voleva dire che noi non riconosciamo, non entriamo dentro le miserie moralistiche, ma più che altro moralisteggianti e spesso squalide, perché poi vengono smentite dai fatti, perché appunto cambiando le epoche i cosiddetti reati cambiano, vengono addirittura dite, ma quanto erano brutti quelli che c'erano una volta, però poi nel tempo presente si tengono. E insomma, voglio dire, questa cosa sarebbe opportuno, per concludere, insomma, che le realtà più conseguenti, che sono appunto quelle del movimento antagonista, che dicono, così come dicono no alla galera, a qualunque titolo ci si stia dentro, per noi tutti coloro che stanno dentro i CIE, i manicomi criminali, le carceri minorili o maggioritarie, maschili o femminili, sono tutti detenuti politici, nel senso che per noi il valore, cioè il motore che l'ha portato in carcere, non è tanto una qualcosa che caratteriale, ma è semplicemente la natura politica di questo sistema, la natura economico, sociale, politica, ma per non farla lunga. Perché per detenuti politici il cosiddetto comune senso di queste società occidentali dice, riconosce, a parte in Italia, c'è stato sempre eccezioni, però in generale, per esempio in molti paesi, noi per i detenuti politici si fanno le amnistie e gli indulti, in Italia no, ma come diciamo l'Italia è un'eccezione anche su questo terreno, però nei paesi democratici il detenuto politico viene trattato in maniera diversa, viene riconosciuta una sua idealità e quindi anche se mazzolato, battuto eccetera, finita l'emergenza, viene riconosciuto un valore ideale e quindi reinserito realmente, cioè accettato, a dire, spesso amnistiato, un po' in tutti i paesi c'è stata fatta l'amnistia dopo qualunque insorgenza di carattere rivoluzionario, perlomeno in alcuni paesi, non proprio in tutti, e in Italia non si fa, non si è fatto, non si farà mai, questo è un altro paio di maniche. Però ecco, quindi dire sono tutti detenuti politici, tutti reclusi sono dentro per il senso, per un motivo politico, anche se hanno rubato, anche se hanno fatto una rapina, perché è la perché noi facciamo risalire ogni responsabilità dell'individuo all'assetto sociale di questa società, sociale, economico, politico, perché è quello che induce poi un comportamenti che possono essere definiti non consoni, intanto perché ciascuna persona viene sottoposta a una oppressione, con tutta la sequenza, oppressione, sfruttamento, vita grama, malessere, sofferenze, eccetera, a cui poi in qualche modo risponda. Bene, questa è la situazione. Noi dicevamo sugli OPG ci torneremo, perché appunto questa campagna è in corso. Marino, per concludere questa vicenda, dice, ricorda che appunto la campagna in cui anche lui sta dentro abolire, per il superamento, dice, degli OPG, e a questo fine dà l'indicazione di un appuntamento per domani, che è un appuntamento tutto istituzionale, noi lo diciamo perché per fedeltà di cronaca, perché poi è un fatto che può avere la sua rilevanza. Che succede domani, giovedì 9 giugno, presso la Sala Zuccari, che è al Senato della Repubblica, quindi chiaramente anche dentro un luogo istituzionale, a Palazzo Giustiniani, a via della Docanavecchia 29, tra l'altro in uno degli angoli più belli di Roma, ma questo non c'entra niente, le istituzioni non sono belle, gli angoli di Roma dove sono collocate le istituzioni sono belli, che volete fare? C'è questa contraddizione che bisognerebbe risolvere. Dunque, sì, ci sarà una giornata di lavoro proprio sugli OPG, convocata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficienza e l'efficacia del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè hanno fatto in modo che la critica agli OPG passasse attraverso questa commissione parlamentare sul controllo dell'efficacia, dell'andamento del Servizio Sanitario Nazionale, perché questa commissione è presieduta proprio da lui, da Ignazio Marino, e quindi sono stati invitati stampa, un sacco di gente, eccetera, ci saranno un sacco di cose, tutte istituzionali, però associazioni, eccetera, vedremo, qui ci sta, volete, vabbè, ma lo trovate su, fate stop OPG, ci trovate che il 9 giugno, cioè domani appunto, c'è questa, il programma è dettagliatissimo, ci stanno tutti quelli che vi parteciperanno, e i lavori poi si concluderanno la sera. Vedremo se produrrà qualcosa. Chiaramente il quadro politico non è che fa ben sperare, e quindi insomma, apposta ancora un'altra volta sollecitiamo le realtà che veramente fanno quello che dicono, quindi il movimento, che si butti, faccia propria addirittura questa battaglia per una chiusura radicale degli OPG, l'abolizione del controllo psichiatrico, che è un controllo più pervasivo delle telecamere. È inutile che ce l'abbiamo le telecamere, che basta un panno sopra per renderli innocui. Il controllo psichiatrico non basta un panno sopra, è un po' più complicato. Bene, e per oggi sugli OPG la finiamo così. Passiamo invece a vedere le lotte interne alle carceri. Allora, dunque, molte carceri sono in lotta, in protesta. La lotta è quella che hanno deciso i detenuti di fare. Chiaramente anche qui, però, come dire, bisogna fare i conti con la realtà. Qualcuno diceva che è sempre bene fare l'analisi concreta della situazione concreta. Dopodiché, le idealità che ciascuno di noi ha, ovviamente, se le tiene presente, però... insomma, bisogna fare i conti con la realtà. Nelle carceri, molte carceri, diverse decine, se ne contano una quarantina di carceri, hanno in queste due settimane passate hanno fatto in periodi diversi forme di lotta. Hanno raccolto un appello, anche questo di Marco Pannella, che ha cominciato uno sciopero della fame, cui non condividiamo assolutamente gli obiettivi di questo sciopero della fame, quindi gli obiettivi alla base di questa, della sua protesta, perché sono quelli appunto di una riforma, di un miglioramento del carcere, di un rispetto delle norme per tenere la gente reclusa. Chiaramente noi non siamo d'accordo per questo e credo che nemmeno i detenuti delle carceri che hanno aderito a questa protesta siano d'accordo con riformare, migliorare la carcere. Stanno dentro perché c'è stata l'unica voce che si è mossa e che d'altronde chi non può fare a meno di lottare, sempre diceva qualcuno, raccoglie quello che la lotta possibile fa. È chiaro che se ci fosse stata una proposta anche qui del movimento oppure di settori più interessanti della società che avessero dato indicazioni diverse, probabilmente i detenuti avrebbero seguito. Comunque sia, sta di fatto, poi comunque una protesta è una protesta e fa crescere le forme organizzative interne, fa crescere i soggetti più attivi, chiaramente cresce anche la repressione, funziona così il mondo. Intanto, tra l'altro, hanno aderito anche le camere penali, che sono gli avvocati, insomma, no? Le camere penali sono camere penali in ciascuna città, in ciascun distretto. Poi c'è un'aggiunta che vede l'unione delle camere penali, sono tutte le camere penali che esistono in ogni distretto. E quindi l'aggiunta dell'Unione Camerale, quindi tutto il blocco degli avvocati, ha protestato contro la drammatica, però è questa la dicitura, protesta contro la drammatica situazione in cui versano le carceri italiane, quindi non mette in discussione, ovviamente, anche se non metterebbe in discussione il loro lavoro. Se scomparissero le carceri, i primi a rimetterci sarebbero gli avvocati, prima ancora dei secondini, perché forse l'ordine possono riciclare appunto in mille modi, ma i magistrati e gli avvocati ne vedrebbero scomparire il loro mestiere, ma a parte questa battuta, però è così. Insomma, quindi loro chiedono soltanto, protestano contro la drammatica situazione, quindi le condizioni in cui versano le carceri italiane. Hanno iniziato uno sciopero della fame a staffetta, ha iniziato il presidente di questa unione camere penali, che si chiama Valerio Spigarelli, e poi prosegue il vicepresidente e via via man mano tutti qui. E questo a livello così, però questo che conta, questo è andato a finire sulle prime pagine dei giornali, mentre invece quello delle carceri no. Per vediamo quali sono le carceri che a noi ci risultano, ma sono tantissime altre. Alcune l'abbiamo parlato l'altra settimana, perché hanno fatto la scorsa settimana i primi tre giorni, i primi cinque, e poi si sono fermati. Poi, adesso in questi giorni che stiamo parlando, in questa settimana, Palermo, Lucciardone, ogni notte a partire dalle 23, quindi quando è passata l'ultima conta, i detenuti cominciano a... Lucciardone è uno di quei carceri che sta al centro, cioè sta in mezzo alla città, quindi la battitura la sente la cittadinanza, quindi è importante come forma di lotta. Diversa per esempio Re Bibbia, perché le carceri nuove, perché sono dislocate in periferia e non hanno palazzi intorno che ascoltano la battitura. Quella ha senso se si raduna davanti al carcere una folla di solidali, allora sì, tu comunichi con la battitura, loro comunicano, che so, con delle fiaccolate e si comunica così. Lucciardone comunque sta dentro la città, dentro il cuore di Palermo, e loro ogni sera a partire dalle 23 iniziano una battitura che dura un'ora fino alle 24, dalle finestre soprattutto perché volta all'esterno, e protestano contro ovviamente anche loro il sovraffollamento, il carovita. Poi beh, questa è la notizia che danno i giornali locali, non sappiamo qual è esattamente la coscienza, forse vogliono qualcosa di più i detenuti che lottano lì. Bisogna vedere le forme organizzate che si mettono in moto. Anche gli avvocati di Palermo sono ovviamente uniti alla loro rivendicazione per oggi hanno indetto anche loro lo sciopero della fame, quindi all'interno delle camere penali, quelli di Palermo, in sostegno della lotta che è partita da lunedì a Lucciardone. Loro oggi scioperano, fanno lo sciopero della fame gli avvocati. Quindi pare che la città risponde appunto perché la zona, io non è che conosco molto bene quella città, ma da quello che so sta abbastanza in una zona popolata anche da proletari, quindi gente che ci sono buoni livelli solidari. Catania, detenuti invece fanno lo sciopero della fame qui a Catania e anche la battitura. Sciopero della fame, chiedono amnistia, allora vedi, questi chiedono già un po' di più, che non c'è nella richiesta di panare l'amnistia. Sì, ossia c'è in effetti per svuotare le carceri e anche per svuotare la quantità di carte che sono accumulate nelle procure e nei tribunali, quindi anche Panella ha chiesto l'amnistia, quindi comunque secondo me l'ha chiesta per non averla, però comunque loro chiedono l'amnistia, è un trattamento ovviamente diverso. Battitura dei ferri tra le sbarre e sciopero della fame, si trova a Piazza Lanza, il carcere di Catania, e vabbè, chiaramente dice qui il commentatore del Gazzettino di Sicilia, dicendo mille motivi chiaramente per protestare. Poi Trani, questa settimana prevalentemente le carceri del sud, mentre la scorsa settimana erano quelle del centro-nord, evidentemente. A Trani c'è stata una grossa protesta, pensate un po', in un reparto che adesso è un reparto normale, mentre invece una volta era reparto di massimo sicurezza, che però è stato abbastanza sottoposto a diverse rivolte, e però hanno fatto una proposta, una protesta non di grande acutezza, eppure sono verificati momenti di tensione, questo dipende dal rapporto che c'è tra guardia e detenuti in quel carcere. Hanno fatto una protesta rumorosa, dice l'agenzia ANSA qui. Per protesta rumorosa si intende appunto la battitura. Hanno fatto la protesta rumorosa e però poi sono intervenuti le guardie. Non sappiamo, cioè in genere, come dici, in altri posti non sono intervenute. Evidentemente può darsi che dentro la protesta c'era pure qualche parola, giustamente, dovuta alla tensione, appunto dipende. Nei momenti di lotta vengono fuori tutte le tensioni accumulate precedentemente, chiaramente. Però pare che sia così. Sono addirittura intervenuti i GOM sono dei reparti speciali atti soltanto alla repressione, che intervengono laddove ci sono appunto proteste alte. Ricordate la storia dei GOM a Sassari, fecero un massacro, e quindi questa è stata repressa duramente a Trani, l'unica di queste carceri che in questione è stata lotta, che hanno avuto una risposta violenta. Addirittura sono stati spostati, poi trasferiti i cosiddetti promotori, 28 persone ritenute dalla direzione dei promotori di questa rivolta sono stati trasferiti in altre carceri, quindi col meccanismo storico degli anni 70 dello sparpagliamento del gruppo promotore della protesta. Ancora San Vittore, quindi tornano ancora il nord, San Vittore, i detenuti rifiutano il cibo per protestare contro il sovraffollamento e poi anche loro fanno battitura, quindi la modalità è quella: rifiuto del cibo dell'amministrazione, che non è ancora vero sciopero della fame. Alcuni gruppi uniscono la non nutrizione quindi sciopero della fame, il rifiuto del cibo è il rifiuto del cibo dell'amministrazione, e ovviamente è sempre difficile, però insomma questa forma. E poi la battitura in ore serali in genere, per così, anche perché è l'ora più silenziosa. Anche San Vittore è al centro della città, ricordate le famose rivolte appunto del 69. San Vittore vide le più importanti rivolte, che poi insieme alle nuove di Torino diedero il via a tutte le rivolte in tutta la penisola, da nord a sud, senza nessuna distinzione, così tanto per cancellare le stupidaggini che si dicono sulle differenze regionali. E invece videro le stesse rivolte. Bari, per esempio, rispose subito, il primo carcere rispose alla protesta c'erano le nuove allora a Torino, e di San Vittore rispose il carcere di Bari, che fece una rivolta ancora molto più importante, quindi gli diede fiato a chi aveva iniziato. Bene. E San Vittore hanno ripreso, però qui non c'è stato per ora intervento pesante, soltanto a Trani di queste carceri attualmente in lotta. Bene, non possiamo che dare ovviamente piena solidarietà a chi sta lottando, vorremmo, sarebbe auspicabile, opportuno, desiderabile, dite come volete, che insomma si vedesse in queste settimane un po' di gente davanti alle carceri per parlare, si può parlare, insomma, no? E per parlare, per solidarizzare, per comunicare, e perché appunto questa lotta non finisca, e non finisca male soprattutto. Allora, mancano 10 minuti alle 16 e come ultimo argomento volevamo affrontare un discorso che crediamo, anzi ne siamo sicuri, è stato e lo è ancora a cuore di soprattutto dei compagni e delle compagne e anche delle persone sensibili. Ci riferiamo alla morte di Stefano Cucchi, una morte anche perché è avvenuta qui a Roma, in un quartiere popolare che tutti conosciamo e frequentiamo, quindi una persona diciamo a noi nota, a noi conosciuta, non un estraneo, non una diversità. Tutti abbiamo riconosciuto in Stefano Cucchi gli amici, l'amico, l'amica, cioè le persone che frequentiamo, conosciamo, che vediamo passare nei luoghi che frequentiamo, una persona che quindi poteva essere il chiunque di noi. Particolarmente debole, chiaramente, su cui il potere nelle sue varie sfaccettature si è talmente accanito fino ad ucciderlo. Bene, su questa cosa abbiamo ovviamente, quando si parla di una persona morta, ci stanno i mezzi familiari, questo ritorno a tutti i livelli, bisognerà parlarne un giorno, ovviamente, come dire, io cerco di parlarne per in maniera molto pacata perché si toccano nervi sensibili. I parenti, quando c'è una persona morta ci sono i familiari, i parenti, per carità, il cui dolore va rispettato, però chiaramente c'è anche, voglio dire, una commistione in qualche modo spesso di ruoli che non giova alla chiarezza. Voglio dire che caso di Stefano Cucchi, un ragazzo, un amico in realtà, anche se chi non lo conosceva poteva definirlo un amico, preso per nulla, perché aveva qualche po' di, non so di che cosa, di marijuana, ma pochissimo, per un consumatore viene preso, sbattuto, ammazzato di botte, attraversa tutti, in gran parte dei settori delle istituzioni italiane, nessuno dice una cosa, lo fanno, finisce ammazzato, morto nel silenzio totale. Veramente una cosa agghiacciante, da, come dire, da quello che forse immaginiamo si vede nei film, succedeva nei periodi nazisti, appunto, quando tu sei contro il potere, quindi ogni cosa, tutti chiudono gli occhi e le orecchie. Vabbè, chiaramente poi ci sono le manifestazioni, tutto quanto eccetera. E poi purtroppo, come succede in Italia, questo triste bagaglio di cui non riusciamo a liberarci, inizia l'iter processuale, quindi si cerca, questo ha distrutto il movimento a Genova, secondo il mio modesto avviso, e molti non saranno d'accordo, sarebbe opportuno discutere. Io sono convinto che anche il movimento di Genova, la repressione di Genova, che andava contrastata con tutti i mezzi necessari, in realtà è stata poi portata, non da tutti chiaramente, anche qui all'interno dei processi, è naufragata nella fanghiglia delle dinamiche processuali, non è rimasto fuori niente quel movimento, non solo per questo motivo, però insomma non c'è più. Allora, vabbè, insomma, anche più o meno su Stefano Cucchi, che diceva: manifestiamo il nostro antagonismo in tutti i settori, in tutti i giorni, quando possiamo, quando vogliamo, quando ne abbiamo voglia. Desiderio del fatto che le istituzioni uccidono e che non lo devono fare, quindi la rabbia, manifestiamo. Invece si è scelta la strada processuale, e non è un fatto ideologico, era per esempio la mia opposizione a questa, alla dinamica processuale, è che, conoscendo per ragioni proprie, anche per storia personale, e la dinamica dei processi, il processo è veramente una vasca di fanghiglia che ti impedisce i movimenti quando ci entri dentro. Beh, adesso il processo sta andando avanti e chiaramente vengono portati, cioè l'accusa ritiene che alcuni, ritiene giustamente che alcuni organi dello Stato, no, i carabinieri, la polizia penitenziaria, siano colpevoli perché, no, hanno prodotto la morte di questo ragazzo, eccetera. Quindi sembra che molti sono contenti, i garantisti, però in realtà questo processo produce una cosa tremenda, uno stigma pesante nei confronti di Stefano. Perché? Perché è chiaro che le dinamiche processuali debbono permettere alla difesa, in questo caso la difesa è la difesa degli aguzzini, di quelli che l'hanno ucciso, quindi dei poliziotti, dei carabinieri, delle guardie penitenziarie, del medico, eccetera, deve permettere di difendersi. E questi, per difendersi, che cosa fanno? Stanno costruendo una fisionomia di Stefano, che era una persona disastrata. Qui vengono fuori delle cose orrende che abbiamo visto altre volte, cioè ne esci maciullato comunque sì, anche se alla fine verranno condannati e non lo sappiamo, però può darsi pure vengano condannati alcuni poliziotti, alcune guardie penitenziarie, un medico, eccetera. In realtà sta uscendo fuori un tentativo di massacrare la figura di Stefano. Era un ragazzo debole, era un ragazzo addirittura che non voleva più vivere, ma come cazzo vi permettete di dire che questa ragazza non voleva più vivere, aveva veramente un rifiuto della vita? Ma come vi permettete? Ma come si può permettere che in questo punto... Cioè, il sistema processuale permette che alcuni dicano che Stefano, portando anche delle cartelle cliniche, perché lui spesso andava in questi posti mettendo in luce i farmaci che prendeva, i medici che l'hanno visitato prima che succedesse questo dramma, e quindi viene fuori un tentativo di creare uno stigma, quindi ucciderlo due volte. Ecco, il processo che cosa fa? Uccide, quando è morto uno dei nostri, ma è successo in tutte le situazioni, quando si è voluto portare, io non mi voglio mettere dentro le spire processuali, la morte di un compagno, di una compagna, cioè, succede sempre così, alla fine ne esci massacrato, perché questo sistema, essendo un sistema pure alle sue clausole di, diciamo, garanzie, le deve avere, però appunto l'unica cosa che non considera la differenza tra chi ha il potere e chi non ce l'ha. come dice la canzone, e quindi chiaramente mettendo necessariamente tutti sullo stesso piano penalizza chi il potere non ce l'ha, e quindi la difesa degli aguzzini, avvalendosi di cartelle cliniche, medici, farmaci, persone che l'avevano visitato o che lo conoscevano, testimoni di vario tipo, stanno costruendo una figura di Stefano veramente già devastato, già morto, come se fosse un morto che camminava, quindi stanno costruendo l'idea che in fondo Stefano era già un morto prima che venisse preso in mano dai suoi aguzzini, e questo è il rischio che si corre appellandosi alla giustizia borghese. La giustizia borghese, lo dice la parola, è quella, è fatta per un certo... una lite tra borghesi può valere perché c'è una garanzia di tutte e due le parti, ma quando ci stanno strutture di potere, strutture senza potere che accettano, diciamo, la dialettica processuale, ne escono massacrati coloro che non hanno il potere, quindi noi non possiamo assolutamente starci in questo gioco al massacro. Insomma, stanno uccidendo Stefano due volte, anche qui sarebbe... Non voglio fare appelli, perché dice che è la giornata della trasmissione degli appelli, per carità, però in qualche modo, siccome Stefano era un amico di tutti e tutte noi, beh, potremmo sicuramente almeno manifestare la nostra indignazione, questa parola che va di moda, anche se ha poco senso, anzi non ha per nulla senso, però in questo caso, visto che si stanno uccidendo per due volte un amico, potremmo indignarci. Ecco, vi leggiamo una testimonianza, appunto prodotta alla difesa, del dottor Luciano Pagliari, direttore del dipartimento di... sono tutti i giornali, comunque sono le udienze, questa udienza c'è stata l'altro ieri. Allora, il dottor Luciano Pagliari, scusate, direttore del dipartimento di emergenza dell'ospedale Figlie di San Camillo, il medico rivela che dal 2000 al 2009, quindi come a dire questo da sempre è abitudinario, Stefano Cucchi andò al pronto soccorso dell'ospedale romano circa 20 volte. Queste sono le parole di questo medico, un giovane dal vissuto complicato, ora fatti i cavolacci tuoi, ricorda il Pagliari. La tipologia è chiara, si tratta di una persona con scarsa capacità di autocontrollo, con tendenza alla violenza. Vedete come stanno massacrando la figura di... Non solo ti ammazzano, ma anche dopo morto. Ancora continua Pagliari, racconta l'incontro personale con Cucchi che, secondo quanto riferite, è avvenuto una sola volta nel luglio 2009. In genere, dice Pagliari, appunto lui, cioè Stefano, arrivava la notte. Ricordo che una volta uno dei medici di guardia fu costretto a far intervenire la pubblica sicurezza a causa dei suoi comportamenti violenti, quelli di Cucchi. Cucchi ha sempre rifiutato le terapie e le indagini mediche, aggiunge. Quasi sempre si allontanava dall'ospedale senza essere regolarmente dimesso. Scappava, quindi, chiedeva farmaci che, aggiunti a quelli che assumeva, aiutassero il suo percorso offerto. Dalle cartelle cliniche era definito paziente epilettico che mescolava medicine in maniera bizzarra e pericolosa. Ecco, guardate come lo stanno massacrando. Ora, possiamo accettare noi che un'istituzione, dopo aver ucciso a suon di botte un nostro amico, continui a ucciderlo? Beh, questa è l'udienza, se la potete trovare questa relazione dettagliata, la relazione dell'udienza del 6 giugno, quindi dell'altro ieri, al processo per la morte di Stefano Cucchi. Questo resoconto è fatto dall'agenzia Dire, un'ottima agenzia che parla di questioni carcerarie, è importante, la trovate su internet, quindi se volete venire a vedere le parole esatte di questo secondo omicidio di Stefano Cucchi che stanno perpetrando nel silenzio assoluto. Ebbene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, sono le 16 e un paio di minuti. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che se volete contattare questa trasmissione potete farlo anche scrivendo una mail all'indirizzo di questa trasmissione, che è semplicemente il suo nome, cioè La Conta, scritto tutto attaccato, La Conta minuscolo attaccato, @ondarossa.info. Potete mandarci notizie, riflessioni, critiche, suggerimenti, quello che volete. Ci sentiamo mercoledì prossimo e quindi buona libertà a tutti e tutte. Uscirò di qui, sarò più bravo qua. Per subito diamo, visto che coloro che attendono la prossima trasmissione che succede a questa, ossia Contaminazioni Afro, saranno già all'ascolto, vogliamo ricordare che per motivi sempre di lavoro purtroppo il conduttore anche oggi non può venire, però sarà qui mercoledì prossimo. Mandiamo una registrazione di una trasmissione fatta alcuni giorni fa sempre di Contaminazioni Afro. Hanno regalato sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Per droghe appesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa, scuola di vita, è il pesce più grosso che mangia il piccolo la